Sempre Radio Popolare, questo è Rimandati a Settembre, che sta per prendere quota. Studio come sempre Roberto Caselli e Paolo Magliocco per parlare di scienza, di scienziati e di altro ancora. E questa sera parliamo di nanotecnologie, vero? Questa sera parliamo di nanotecnologie, di un mondo piccolo ma non piccolissimissimissimo come quello delle particelle elementari, chiedo scusa. Con noi per parlarne abbiamo Guglielmo Lanzani. Ciao Guglielmo, ben arrivato. Ciao a tutti e due, buonasera a tutti. Buonasera a te e grazie per aver accettato il nostro invito. Un piacere. Allora, intanto, uno che si occupa di nanotecnologie, che cosa ha studiato? In che cosa ti sei laureato tu? Io mi sono laureato in fisica, fisica della materia. Però nelle nanotecnologie trovi di tutto. Ci sono chimici, adesso scienziati del materiale, ingegneri elettronici, quindi abbastanza ampi, e anche biologi, medici in questo momento, perché forse una delle frontiere più interessanti delle applicazioni è nella medicina. E quindi è un campo abbastanza multidisciplinare. Quindi si può dire che ogni campo applicativo ha un suo esperto in nanotecnologie. Sì, sì. E a me piace la squadra, quindi in cui ognuno ha un suo ruolo. Non mi piace, non credo tanto nelle figure miste. Quindi secondo me è giusto che uno sia un fisico, un chimico, un biologo. Poi però ci vuole un linguaggio comune. E quindi tutti devono avere questa lingua comune per poter parlare, perché poi la scienza è collettiva. E quindi tu trovi queste persone, magari con un background appunto di medicina, neuroscienze, che però sanno, capiscono cosa sta facendo il chimico, cosa gli dice il fisico, più o meno. Ma questo è un dibattito di cui si parla molto, no? All'interno del mondo della scienza, di abbattere i compartimenti tra una branca e l'altra. Sì, sì, secondo me è una delle frontiere. Beh, è difficile. Spesso io dico che io sono riduzionista, perché sono un fisico, e i miei colleghi di neuroscienza e medicina invece sono olistici. Poi loro a volte si arrabbiano, a volte dipende, non sempre sono contenti di essere definiti così. Però vedi, il punto è che l'idea della fisica di ridurre le cose a un esperimento semplice e fondamentale da cui estrai una legge, no, che poi vale, e non è applicabile a sistemi complessi come spesso sono quelli biologici. C'è proprio secondo me un limite fondamentale, quindi essere olistici non è un limite perché non sono capaci di essere più deterministici o quantitativi. È un problema, il motivo è che stanno studiando una cosa così complicata che non è possibile, forse non abbiamo ancora trovato la matematica giusta per descrivere dei sistemi così complessi, soggetti alla statistica, quindi è molto complesso lavorare col bio. Facci degli esempi di nanotecnologie, per esempio. Ma guarda, ce ne sono tanti, probabilmente più di quello che uno immagina. Ci sono almeno 2000 prodotti in giro nel mercato che hanno nanotecnologie, e secondo me però il bello deve ancora venire, quindi spero che non si fermi qui, se no è un po' deludente. Comunque i prodotti sono tipicamente creme, spray, trattamenti superficiali e poi dispositivi. E quello che succede è che vengono di solito mescolati, uniti dei componenti di dimensioni nanometriche, tipicamente sotto 100 nanometri. Quanto è un nanometro? Un nanometro è il rapporto tra una formica e il diametro della Luna, cioè è 10.000 volte più piccolo di un capello, quindi è un miliardesimo di metro. Un miliardesimo di metro, quindi un milionesimo di millimetro. Un milionesimo di millimetro, 10 alla meno 9. 10 alla meno 9, esattamente. Quindi un capello a circa 10.000 nanometri. Ed è quindi un territorio un po' di frontiera, perché come ci dicevi tu, è un territorio in cui ci si buttano i fisici, i chimici, ma anche i biologi. Quindi è qualcosa dove ci stanno sia le cellule che sì, gli elementi soprattutto semplici. Le cellule ci stanno come applicazione. Quella nanotecnologia è a mio avviso l'ingegneria della meccanica quantistica, cioè l'applicazione, così come l'ingegneria classica applica la fisica classica, la meccanica quantistica trova una sua applicazione nella nanotecnologia, perché ha quelle dimensioni e le equazioni del moto, la fisica che regola i processi è la meccanica quantistica. E una delle applicazioni più interessanti, a mio avviso, è la medicina. Però questa che vi ho detto sono, se vuoi, più semplici, tipo le creme, non so, per esempio le creme solari hanno tutte ossidi di titanio all'interno, erano bianche perché c'era molta diffrazione di scattering dovuto alla dimensione grossa, e poi riducendo le nanoparticelle grazie alla nanotecnologia sono diventate trasparenti, contengono comunque ancora queste nanoparticelle. Poi c'è l'uso molto esteso. Ci abbronziamo meglio, e grazie a voi, questo che ci stai dicendo. Senza scottarsi, sì, esatto. Però no, non ne sono particolarmente fiero di questo, diciamo. Spero che si vada oltre la crema. Ecco. Poi ci sono altre cose, c'è l'argento, no? È una particella di argento come antibatterico, che sono, che questo è conosciuto dall'antichità, dal Medioevo, che l'argento ha queste proprietà, però in forma di nanoparticella, poi in un fluido, sospeso in un fluido, può essere poi più facilmente distribuito, no? E quindi a volte vengono messi in vari tipi di prodotti o sostanze con questo scopo. Ci avviciniamo all'omeopatia in qualche modo. Ecco, dunque, questo colpo basso, eh? Prendo le mie distanze. Ed ecco, sull'omeopatia avrei. Come quantità comunque. Sai, ecco, sì, io dico che il numero di Avogadro è lì, e quando uno va sotto a quello, stiamo parlando di magia. Però c'era Benveniste, vi ricordate la memoria dell'acqua, che era stato pubblicato, sì, su Nature? Sì, ecco, no, quello, certo. Dicevano. No, cioè, comunque. No, comunque, quello che ci raccontavi è che la nanotecnologia fa funzionare meglio alcune cose di cui sì, diciamo, conferisce delle proprietà, sì, ai materiali, però anche delle cose che prima invece non si potevano fare senza le nanotecnologie. Sicuramente. Detto ciò, è un bel esempio di nanotecnologia è del IV secolo dopo Cristo, quindi dai. Uno dice è nuovo, sì, cioè è nuovo, però però chiaramente nel IV secolo dopo Cristo c'è questa famosa coppa di Licurgo che ha degli effetti molto interessanti di colore, e in particolare se è illuminata davanti è verde, dall'interno è rossa. E recentemente, con un microscopio elettronico, a trasmissione elettronica, hanno dimostrato che in questo vetro della coppa di Licurgo ci sono delle nanoparticelle di una lega di oro e argento di 70 nanometri. Quindi è un primo esempio di nanotecnologia al lavoro. Anche le finestre medievali hanno i colori dovuti alle nanoparticelle metalliche. Ovviamente allora probabilmente non lo sapevano. Ma in natura che cosa? Quindi esiste in natura, evidentemente. Le dimensioni assolutamente nanometriche. Esistono sono? In natura, perché per esempio l'effetto Lotus, il carattere idrofobico di certe superfici, quindi che poi viene sfruttato per fare superfici autopulenti o antibatteriche, anticongelamento, queste cose, antincrostazione, copiano la natura che ha queste strutture nanometriche proprio che impediscono che si attacchino particelle. Poi ci sono i colori, molti colori in natura sono i cosiddetti colori strutturali, cioè non sono dovuti ai pigmenti, ma sono fatti da materiali trasparenti che però sono alternati in strati, e questi strati hanno dimensioni della lunghezza d'onda e danno un effetto di colore. Per esempio l'iridescenza che si vede nei coleotteri a volte, le farfalle. Esatto, bravo. Questi sono cobalto, sì. Sì, i cristalli fotonici, che sono questi colori strutturali. E quindi anche quello, e in alcuni casi gli animali che fanno il mimetismo, che cambiano i colori, usano la nanotecnologia, inseriscono e tolgono, cambiano la composizione. No? E voi copiate dalla natura? Noi assolutamente copiamo, certo. E direi una cosa interessante è che la tecnologia si avvicina sempre di più alla natura, quindi non si allontana, cosa che a volte la gente pensa. No? Noi invece la copiamo e andiamo sempre più verso quello che, cioè, vorremmo essere capaci di fare quello che fa la natura. Ovviamente come la robotica in dimensioni molto maggiori. Come una robotica, esattamente, sì. E se vai a vedere l'evoluzione, vedi che le strutture più piccole si sono poi assemblate, no? E quindi ci sono virus, batteri che hanno dimensioni delle nanoparticelle che noi usiamo in nanotecnologia. Ma tu per esempio dove lavori? Lavori in un in che mondo? Insomma? Dunque io lavoro in un laboratorio che in parte misura e in parte fabbrica, perché la nanotecnologia secondo me ha queste tre direzioni, componenti, che sono la diagnostica, poi dice facciamo le cose piccole, bisogna vederle, sapere che ci sono, quindi c'è la diagnostica che è lo studio delle proprietà, c'è la fabbricazione, fabbricare questi oggetti piccoli, e poi c'è la teoria, il modello, che è la meccanica quantissima, la comprensione dei fenomeni su questa scala. Io, diciamo, ho iniziato come spettroscopista, questa parola, quindi uso... A me è sempre piaciuta la luce, i colori, poi ci sono delle banalità di fondo della vita, cioè il motivo che mi piacevano i colori, mi piacevano i laser, e la luce laser nella stanza buia mi ha sempre affascinato, come una falena andavo lì. E quindi ho iniziato a fare questi tipi di studi in cui tu usi la luce per interrogare la materia, capire com'è fatta, cosa c'è dentro, come funziona. Hai costruito il tuo primo prisma? Anche sì, ho allineato i miei laser, quindi esatto, ho iniziato a fare queste cose. E piano piano, quindi da lì ho iniziato a studiare oggetti, molecole, e ho iniziato a studiare poi strutture nanometriche, quindi è da lì che è arrivata. Ma cosa succede? Che l'industria fa delle richieste, per esempio, può succedere? Assolutamente, sì, l'industria fa delle richieste e anche questo, diciamo, il technology transfer è un campo, un argomento interessante, non è facile da fare, sapete che c'è questa, la chiamano la valle della morte, tra l'idea che uno può avere facendo ricerca e l'applicazione, no? Bisogna attraversare questa valle, molte idee muoiono lì. E spesso noi non sappiamo cosa serve all'industria, non abbiamo idea di quali siano i loro problemi, quindi è molto interessante e importante avere uno scambio. Loro vengono e ti dicono: io vorrei una superficie che per esempio è antibatterica, non si congela, o io vorrei fare, cioè hanno delle loro richieste, esigenze, sì, molto, di solito molto chiare, molto puntuali. Spesso difficile anche da rispondere, a cui rispondere, e noi a volte abbiamo nella nostra cassetta, tiriamo fuori qualcosa, ma guarda, io ho questo. Il famoso cilindro. Sì. Che poi magari non lo sapevamo. Dai, facci due esempi, uno di idea morta nella valle della morte, defunta proprio lì, e una invece che è andata attraversata. La prima, così che mi viene in mente, per esempio, sono partito con una ricerca con i colori, e abbiamo realizzato dei fotodiodi che vedono i colori, la luce, cioè dei rivelatori, dei rivelatori che trasformano la luce in un segnale elettrico, e li abbiamo fatti che hanno una risposta spettrale dei coni dell'occhio, no? Dei fotorecettori naturali della retina, come il nostro occhio. E quindi volevo fare un colorimetro. Un colorimetro è un oggetto, che è un'enorme applicazione, che serve per misurare quantitativamente i colori, cioè per associare a un colore dei numeri. E voi dite: chi se ne frega? No, è perché se io faccio le mattonelle, le vernici, o anche ti devo fare un dente, devo avere esattamente la carrozzeria, no? Devo sapere esattamente qual è il colore, e nel caso per esempio di una mattonella deve essere standardizzato. Allora ho una macchina che lo misura, no, non è lasciato anche se poi l'impressione dell'uomo è importante. Però c'è chi, penso, guarda a occhio e confronta, ma se uno avesse una macchina precisa non la può usare. Quindi i colorimetri sono molto usati. Allora io pensavo di fare questo colorimetro, questa idea è morta, sono andato anche, mi ricordo, a Bressanone, mi pare un'industria che faceva colorimetri, che aveva risposto a un nostro press release, no? Aveva saputo di questo nostro lavoro, e abbiamo cercato di integrare i nostri dispositivi, però mi sono arenato su piccolezze, poi l'elettronica, cioè bisogna avere una struttura dietro, perché vedi, chi fa applicazione non è chi fa ricerca, quindi tu devi avere una squadra in cui ci sono dentro persone che sono tecnologi, no? Certo. E non ricercatori. Io allora ero in università, non all'Istituto Italiano di Tecnologia, e non avevo queste persone, quindi mi sono arenato e questa idea è morta. Però da lì ne è nata un'altra, perché io ho detto: beh, ma abbiamo sti cosi, vedono i colori come i fotorecettori naturali della retina, perché non li schiaffiamo nell'occhio e vediamo se possiamo sostituire la retina? E da lì è partito un progetto, inizialmente abbiamo messo i neuroni con un neuroscienziato, Fabio Benfenati, abbiamo depositato i neuroni, poi abbiamo messo le retine spiantate e adesso stiamo ridando la vista ai ratti. E questo è uno dei tuoi grandi successi, uno dei tuoi grandi cavalli di battaglia, sì. La retina artificiale che state realizzate proprio qui a Milano, no? Vicino al Politecnico. Noi la fabbrichiamo a Milano, poi viene impiantata da Grazia Pertile e Maurizio Mete, che sono dei chirurghi oculisti di Verona, e viene studiata a Genova dal gruppo di Fabio Benfenati, che invece è un neuroscienziato. Quindi quello, fra l'altro, è un esempio di un progetto multidisciplinare. Immagino che sia poi, insomma, pensata anche per gli esseri umani, insomma, questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Ovviamente. Sì. Sono stato al Ministero della Salute qualche settimana fa, ci hanno aiutato, ci hanno dato dei suggerimenti. State lavorando in questo senso. Sì. Allora, fermiamoci un attimo con un brano, poi ci spieghi esattamente che cos'è una retina artificiale, però, che cosa è fatta, ammesso che sappiamo come è fatta una retina naturale. Allora, una delle tue prime richieste musicali è un pezzo che io amo molto, Think di Aretha Franklin. Mm-hmm. Fantastico. Just I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees. Aretha Franklin con la tua Think, sei un perché? Amante di musica soul. Sì, perché pensando ai ovviamente sono datato e si capisce, ma il Bruce Brothers li amo, li ho visti mille volte in sua memoria, e quindi è uno dei pezzi che mi piace di più. Così. Roberto, poi se ci la parola blues, sì, io sono felice. Lì era un Think molto specifico, un problema tra uomo e donna, marito e moglie, però insomma, Think poi in generale. Certo. Senti, andiamo un pochino più a fondo di questa cosa meravigliosa che ci hai appena detto della retina. Hai detto che avete fatto un esperimento sui topi, sui ratti. Sì, sui ratti, sì. E sembra che funzioni. Però giustamente tu dici, i ratti non parlano. I ratti non parlano e ci vedono pure male, perché sono animali notturni, quindi loro hanno una retina molto diversa dalla nostra. E così. Allora, però con una serie di esperimenti si riesce a capire se hanno sensibilità alla luce, se si orientano, e poi anche se hanno proprio capacità di acuità visiva, cioè capacità di distinguere degli schemi, dei pattern, che dovrebbe voler dire che ci vedono, che hanno un contrasto. Per cui quindi voi costruite una retina che artificiale. Ha delle cellule che sostituiscono i coni è un oggetto semplicissimo che è nato da una cella fotovoltaica, perché sia gli oggetti che vi ho detto prima, i colorimetri, erano sostanzialmente celle fotovoltaiche usate come rivelatori per vedere un segnale invece che produrre energia, ma sono sempre oggetti che assorbono la luce e creano un segnale elettrico. Come fanno le nostre cellule dell'occhio. Come fanno le cellule dell'occhio. Beccano un segnale luminoso e lo trasformano in un segnale elettrico che va poi al nostro esattamente. Cervello. Okay. E ovviamente lo fanno in una maniera complicata, biochimica, quindi attraverso neurotrasmettitori e una cascata di processi della fototrasduzione, che non sono per niente semplici. Al confronto il nostro strumentino, il nostro dispositivo è banale, insomma. È così, la fisica è sempre Vogliamo semplice Lanzani minimizza quello che sta facendo, noi, in realtà è una cosa che mi sembra davvero noi siamo dei poveretti così, la nostra protesi è così semplice che non sono neanche riuscito a brevettarla, perché mi hanno detto quella roba lì l'hanno già fatta, è troppo semplice. Quindi c'è un substrato di seta, per esempio, poi mettiamo un polimero conduttore tipico che usiamo per le celle fotovoltaiche, un sale, si chiama PEDOT, e poi mettiamo un polimero invece coniugato che assorbe la luce, che è uno stretto parente del retinale, che è il cromoforo che noi abbiamo nella retina e che rivede la luce, che è fatto che è metà vitamina A, cioè metà beta carotene, insomma quindi mangiare le carote forse fa bene. In qualche modo è collegato, c'è un qualche un filo rosso che ci unisce. Deve essere qualcosa che identifica poi quelle frequenze sì, anche lì infatti, no? È bello, interessante che c'è un'unica molecola. Se no si vede in una maniera che vedi tre colori perché l'ambiente proteico probabilmente è diverso, la forma è un po' diversa e quindi è accordata sui tre colori. E poi ci sono i bastoncelli che adesso qui è illuminato, sono saturi, che sono quelli che usiamo invece per la visione notturna. La visione notturna, infatti, è tipico, tu esci da una stanza illuminata, vai al chiaro di luna, al momento non ci vedi niente. Se poi aspetti, i bastoncelli ritornano, i coni non vedono più, ti adegui e vedi. Se stai attento, vedi in bianco e nero, perché i bastoncelli sono un tipo solo, e vedi a risoluzione bassa. Per cui io dico sempre, ragazzi, occhio, il chiaro di luna è romantico, ma attenzione perché ci vedete male. Quindi se poi fate una scelta per la vostra vita, attenzione, perché meglio sarebbe sotto la luce del sole. Però, insomma, quello che si può. Sì. Senti, poi hai detto che avete fatto già qualche esperimento sui maiali. Abbiamo fatto delle operazioni sui maiali perché l'occhio del maiale è molto più simile all'uomo, detto così, perché il maiale è più simile a noi. Quindi diciamo, la tecnica chirurgica è stata messa a punto da Grazia Pertile e quindi si è preparata a fare eventualmente un'operazione sull'uomo. Quindi avete chiesto già... Noi abbiamo iniziato a muoversi, ovviamente vi immaginate, anche giustamente, insomma non è facile andare a fare un'operazione sull'uomo, però ci hanno indicato una strada al ministero e io adesso sono relativamente ottimista e penso che magari in un anno potremmo riuscire a arrivare a fare alcuni casi. Ma da quanti anni state lavorando però su questo progetto? Questa attività è iniziata proprio con l'idea della retina nel 2009-2010, quindi sono 5 anni. Quindi dall'occhio, i colori, ancora prima, 2007-2008, quindi c'è voluto tempo. Però è bene dire, come dicevi tu prima, che questo potrebbe funzionare solo a livello di retina. Cioè quindi, sì. quindi è solo per chi ha delle patologie che dei fotorecettori, quindi tipicamente la malattia target è la retinite pigmentosa. Poi adesso io non sono un medico, ci sono vari tipi eccetera, non voglio avventurarmi in cose magari inesatte. La retinite pigmentosa, eventualmente la degenerazione maculare, sono due malattie dei fotorecettori, quindi in quel caso il resto della retina più o meno resta invariato e il nervo ottico deve funzionare nel nostro caso, se no non possiamo intervenire. Sì. Mi sembra un'ottima... Sì, è un esempio. Ma questo esempio ci porta proprio in una delle domande chiave che riguardano le nanotecnologie. Cioè le nanotecnologie sono una di quelle branche della scienza, se vogliamo definirle così, che ogni tanto sembrano la grande promessa del futuro, quella che risolverà un certo numero di problemi, quelli fondamentali magari, e vi si affidano delle aspettative altissime. Sì. Secondo te è ragionevole questo oppure si sta un po' esagerando? Ma è difficile dirlo, è una frontiera della scienza e della tecnologia. Noi lavoriamo anche nell'energia, abbiamo celle, per esempio, peroschiti, sono nuovi tipi di materiali. E vi dicevo, nella medicina, nella diagnostica, nella sensoristica ci sono opportunità molto interessanti. Poi dire se la promessa sarà mantenuta, sai, è difficile. Sicuramente a volte si esagera. Per esempio il fullerene, no? Vi ricordate, è una molecola di 60 atomi di carbonio con la forma del pallone da calcio e ha vinto un premio Nobel quasi subito. È diventata famosa, doveva servire a qualunque cosa, era la classica soluzione in cerca di un problema. E alla fine, che io sappia, viene usato come accettore nelle celle fotovoltaiche, anche noi lo usiamo, in quelle di plastica che stampiamo, come si stampa un giornale, stampiamo celle fotovoltaiche, e vi posso raccontare anche di questo. Però, vuol dire, va bene, fa questo, è stato usato come lubrificante, che è un'altra delle applicazioni delle nanotecnologie attualmente in corso, cioè trovate dei lubrificanti che hanno delle nanoparticelle sotto i 100 nanometri, e basta, cioè tutto le altre cose. Una scommessa che doveva fare, sì, è mezza stata persa, un po', se non sì, proprio persa completamente. Allora, già che finisce in ene, ne prendiamo un altro e parliamo del grafene, che è una di quelle cose, no? Questo foglio di un atomo di carbonio soltanto. Lui, sì, uno dei motivi per cui le nanoparticelle hanno molte applicazioni è che sono tutta superficie, cioè rispetto al volume hanno una superficie enorme, no? Perché io faccio sempre l'esempio, se prendi un cubo di un metro e lo rompi in cubetti di 10 nanometri di lato, hai una superficie laterale equivalente a quella dell'isola di Corfù, quindi sei partito con un metro. Quindi, diciamo, con pochi grammi di grafene, 5 o 6, copri un campo di calcio. E poi, che cosa ci possiamo fare con il grafene? Potresti giocarci col fullerene sopra, che è il pallone a calcio. No. Ma ecco, questa domanda. Dunque, IT ha una importante attività perché c'è un progetto flagship della Comunità Europea che per quanti noi soldi? Tanti, un miliardo di euro. Sì, e per noi è guidato da Vittorio Pellegrini e il suo gruppo, e loro stanno lavorando e stanno cercando, ecco, in questo momento anche lui è un po' una brillante soluzione in cerca di un problema, però vedremo. Insomma, sono scommesse, ha delle caratteristiche sicuramente uniche, quindi mobilità estreme, questo il fatto che è sottile, no, che conduce le trasparenze, ci sono cose interessanti. Poi, sai, il fatto che abbia successo, torniamo alla Valle della Morte, no? Il motivo, non è detto che una cosa intelligente, bella, che funziona, può non aver successo lo stesso, cioè ci sono insieme di condizioni che devono essere soddisfatte perché una cosa arrivi veramente poi a essere nella vita comune. Come dicevi tu prima, a volte sono i dettagli, no? Poi quelli che incagliano tutto il processo, ci sono delle cose che non si riescono a fare. Il diavolo è lì, e poi se vai sul mercato, per esempio nel lavoro del fotovoltaico, è un tipo di ricerca in cui, pur essendo fisici, l'aspetto economico non possiamo dimenticarcelo. Cioè, ti chiedono sempre quanto costa il watt che tu produci, perché non ce ne frega niente di fare una cella fotovoltaica che funziona benissimo, ma costa troppo. Parliamo delle celle fotovoltaiche e quindi dei grandi problemi sui quali le nanotecnologie potrebbero darci un aiuto e una risposta. Celle fotovoltaiche significa energie alternative o, come si dice adesso, giustamente, rinnovabili. Energie rinnovabili. Ora, inesauribili. Prima cosa che direi è che a oggi noi abbiamo più risorse di petrolio a disposizione che mai prima. quindi il questo petrolio è un problema per chi studia le celle, sì, da un certo punto di vista sì, infatti non eravamo contenti. Questo perché è stato trovato di nuovo? Perché sì, beh, in parte per il fracking, perché le tecniche di estrazione sono migliorate e perché certe tecniche di estrazione costose sono diventate convenienti perché il prezzo di petrolio è cresciuto. Infatti, fra l'altro, avendo abbassato il prezzo del petrolio recentemente, no, immettendo il barile su i soliti meccanismi, crisi della borsa, c'è stato molte company hanno chiuso perché poi non riescono più a stare a prezzo. Però vabbè, questo per dire, cioè, però l'altra frase che mi piace dire, che è di un ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, è che l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre. Quindi uno dice, non è, il petrolio c'è e per cui questo lo dobbiamo sapere e non andiamo facilmente a sostituirlo, no? Dobbiamo andare a trovare delle cose in cui ha senso avere la cella fotovoltaica, perché non c'è un problema, fortunatamente, forse anche di immediata fine delle risorse. Però se tu consideri l'inquinamento, esatto, l'impatto ambientale, il fatto che comunque è una cosa a termine, per cui saranno anche 100 anni, ma poi certo, non ci sarà più e gli scienziati devono pensare al futuro, certamente. Quindi ci sono una serie di motivi per cui ha senso studiare l'energia rinnovabile, e il sole in un'ora ci manda l'energia che serve per un anno, quindi la nostra incapacità di raccogliere e sfruttarla è notevole. Però non nascondiamoci dietro un dito, se il petrolio costa $50 al barile anziché $100 al barile, a te i soldi per realizzare le celle fotovoltaiche è più difficile che te li diano. È più difficile, però noi ci stiamo ingegnando. Per esempio, la nostra startup si chiama Ribes, che abbiamo scelto dopo l'Apple, abbiamo scelto un altro frutto, le pere. Già. Abbiamo preso Ribes Technology, sì, Ribes Tech, e è una startup con un'industria di Lecco Omet che fa macchine da stampa per stampare celle fotovoltaiche. Noi per esempio puntiamo a un mercato strano che è l'indoor, cioè l'uso delle celle fotovoltaiche dentro gli edifici. Qui non è energia solare, è energia luminosa. Perché ci sono molti, e per esempio per alimentare le reti di sensori dell'Internet of Things, di cui tutti parlano, no? L'IoT. Ora, ci sono molti, pensate, supermercati, ospedali, non so, mostre, ci sono molti spazi che sono illuminati sempre, e avere una rete di sensori che funziona può essere molto utile. Il supermercato è un esempio poi speciale, perché la spesa intelligente, no? Vai lì, ti dice dove trovi, io mi perdo sempre, no? A volte devo telefonare a casa, chiedo dove hanno messo le arachidi, perché non le cose così, vai in giro, tu potresti avere una guida, una che ti dice dove c'è l'offerta, ti fa il conto immediatamente, c'è una serie di cose che sono legate a sensori, una rete di sensori. Senti, io ti volevo fare una domanda, ma secondo te le sette sorelle fanno investimenti anche sulle nuove tecnologie, oppure si tengono strette il petrolio? No, li fanno, però considera che quello che per noi è un grosso investimento, per loro è proprio gli è caduto fuori dalla tasca. Però li fanno, no, li fanno proprio per quel ragionamento del ministro d'Arabia Saudita, perché loro sanno che finirà. Quindi di questo ne sono ben consci. Infatti vedi che stanno investendo, comprano. Poi fra l'altro è impressionante, io sono stato al Khoust, questa università King Abdullah University a Jeddah in Arabia Saudita. Tu vedi lì un mondo, è una cittadella di 1500 persone che è totalmente artificiale, cioè vive sulle macchine. Cioè un giorno gli si era rotto il desalinizzatore e hanno dovuto portare l'acqua coi camion, ma insomma, cioè loro, se tu gli togli la tecnologia un po', dopo qualche giorno la vita lì non c'è più. Cioè, ci sono i campi di golf, perché poi hanno questi nel deserto. E questo ci porta anche che tu dici, ma era proprio necessario. Poi ci sono 45 gradi, 50, non so, io non gioco. È una prova di sopravvivenza. Sì, esatto. Cioè, quello che fai ha molto a che fare con il modo in cui vive la società, no? In cui siamo, e questo rimanda a una delle cose alle quali tu tieni molto, cioè la responsabilità sociale poi dello scienziato. E anche una canzone tra quelle tu hai sì, che scelto. Poi è legata un po' alla mia storia personale, perché io ho fatto l'obiettore di coscienza e quindi sono rimasto in università per quello. Qual è la canzone che voleva? Era Born in the USA. Born in the USA, vabbè, certamente. Cioè una grande canzone pacifista. Pacifista, grande Springsteen. Ce la sentiamo subito? We'll be right back. Allora, sempre rimandati a settembre, Guglielmo Lanzani come ospite, un nanotecnologo. E di nuovo Born in the USA, che sì, Springsteen va tanto tra gli scienziati, sì, tira. Sì. Senti, però tu hai scelto questa canzone, dicevi, per il suo significato anche di impegno sociale. Sì, perché è una canzone contro la guerra, nonostante ciò è quello che pensasse all'inizio Reagan, sì. E quindi mi piace perché io ho fatto l'obiettore di coscienza, quindi mi ero occupato dell'arma nucleare, gli effetti dell'arma nucleare, e l'ho fatto in questa Unione Scienziati per il Disarmo. Esiste ancora un'Unione Scienziati per il Disarmo? Ma credo che nessuno l'abbia chiusa, quindi sì, l'USPI dovrebbe esserci ancora, e penso che sia confluita nel Pugwash, che era un gruppo simile internazionale di scienziati per la pace, in qualche modo ispirato dal manifesto di Einstein e Russell, no, contro l'uso delle armi nucleari, e poi da Rotblat, che era stato uno dei primi a parlare di controllo degli armamenti. Così è stata un'esperienza per me importante, perché io sono stato precettato, ho fatto l'obiettore di coscienza. C'era allora un grande ministro, che voi vi ricorderete, che era Spadolini, che è grande, nel senso che era un 200 grosso, voluminoso, almeno 200, non era un nano. Che aveva deciso che come lo dipingeva sì. Forattini, che se lo ricordate. Sì, esatto, sì. E lui aveva fatto questa legge, già 20 mesi l'obiettore di coscienza, sì, e sì. Io mi sono beccato questa legge, e quindi ho rimandato fino alla laurea, no? E poi sono stato precettato. Io volevo andare al Museo della Scienza e della Tecnica, mi è arrivata la cartolina, però devo dire in perfetto tempismo. Sono arrivato a luglio, arrivato a settembre, e che mi diceva di andare a un dipartimento di fisica, una cosa un po' strana. Mi sono presentato lì e c'era questo fisico, un personaggio brillante che io ho apprezzato molto, e che è Adalberto Piazzoli, che è un fisico nucleare di Pavia, e lui era il segretario dell'Unione Scienziati, della sede, della sezione di Pavia dell'Unione Scienziati per l'Esamo. Sostanzialmente eravamo io e lui la sezione. E vabbè, sono stato lì, per esempio ho costruito un cruiser a grandezza naturale assieme a Marciano, che era un tecnico lì di DNFN che mi ha aiutato. Era stato divertente. Ma non per lanciarlo questo cruiser? No, la speranza nostra era che di essere rivelati, sai, dal satellite, che ci fossero gli americani che arrivavano lì a Rozzano, dove me invece non si sono accorti subito. Però era bello, di alluminio, grosso. Avevamo fatto questa mostra sui cruiser, sulle armi nucleari, no? Poi io mi ricordo che ero andato a fare dei seminari così in giro, sugli effetti delle armi nucleari, cose così. Però intanto che ero lì ho detto vabbè, facciamo il dottorato, no? Visto che sono qui, ho iniziato il dottorato di ricerca l'anno dopo, e da lì dopo la seconda guerra mondiale c'era stato un soprattutto da parte dei fisici, no, che si sentivano forse anche un po' nel senso di colpa. Sì, pensavo che dicessi dopo la seconda guerra mondiale come periodo, ma non sono così vecchio. c'è stato un grande impegno soprattutto da parte dei fisici sull'onda del manifesto di Einstein e Russell. E poi invece quello che volevo chiederti è questo: si è un pochettino perso questo impegno degli scienziati? Ma forse un po' sì. Per esempio, io mi ricordo che quando facevo l'obiettore c'era lo scudo stellare di Reagan. Fra l'altro vedi ancora Reagan e quindi Bruce Springsteen, questi sono collegati. Reagan aveva lanciato lo scudo stellare e c'era molta tecnologia, armi, energia diretta, fasci di particelle, fasci laser, no? Quindi ci sembrava esserci anche un argomento specifico, tecnico per i fisici. Ma in realtà la mia conclusione, penso anche quella degli altri, è che la pace è un problema politico, non è un problema tecnico. Cioè, la tecnologia e la scienza non c'entrano mai, non possono essere utilizzate bene o male. Sì, però una buona come si dice, padronanza, puoi dire, delle armi di guerra, insomma, possono spingere la politica anche verso soluzioni poco piacevoli. Insomma. Sì, sì, certamente, però alla fine la responsabilità è sempre politica. Sì, sì. Però lo è maggiormente se sei supportato da una forza. No, certo, certamente. A quella del sì, nemico, sì, sì, certamente. Quello, l'idea di farsi una. Fra l'altro, lì lo scudo stellare aveva questo problema che sembrava essere un'arma difensiva, ma in realtà, se io mi faccio uno scudo e tu non mi puoi più attaccare, la prima cosa che tu fai è attaccarmi prima che io abbia finito lo scudo, certo. Perché no, giustamente non ti fidi di me, è comprensibile se c'è da una parte, no? Forse gli scienziati dovrebbero anche intervenire di più, far sentire di più la propria voce su queste questioni. Sì, è comunque a mio avviso una comunità che si caratterizza per essere multiculturale, assolutamente non razzista, no? Aperta, siccome queste cose rimangono. Poi ogni tanto c'è l'Edward Teller di turno che deve costruire armi nucleari di tutti i tipi, o voleva mettere le bombe nucleari in orbita per far partire i laser, la GX, cose così. Però sono casi, io direi la maggior parte degli scienziati secondo me è tipicamente pacifista. Perché la scienza ha bisogno di pace per potersi... Sì, è perché la scienza è un fenomeno collettivo assolutamente, cioè l'avanzamento della conoscenza è collettivo. Anche il genio, se tu vai a vedere Einstein, Newton, sono ovviamente geni, no? Persone al di là, al di fuori della normale. Però, come dicevano loro stessi, no? si appoggiano su spalle di giganti, no? La famosa frase. Vedono, e per dire, anche Einstein aveva intorno persone che avevano fatto cose, no? Lorenz, Levi Civita, matematici, vari tipi, vari fisici che hanno fatto cose simili. Poi lui ha visto di più e meglio, no? Però non è mai un singolo, non nasce mai dal nulla la cosa. Le leggi vengono sempre enunciate da più persone, magari in forme diverse, e quindi la conoscenza è assolutamente collettiva. È un'evoluzione. Sì, quindi l'Homo sapiens è un animale sociale e certo. Questa è una caratteristica fondamentale di questo. Senti, ritornando alle nanotecnologie, volevo chiederti una cosa. Ci sono degli elementi chimici che sono particolarmente adatti per le nanotecnologie? Beh, ci sono alcuni come l'ossido di titanio che sono usati più di altri. Quindi nelle applicazioni, torniamo all'inizio, quelle che dicevamo più di prodotti, ci trovi particelle di argento, oro, ossido di titanio, un po' di silicio. Un po' di carbonio. Così usato, per esempio? Sì, il silicio viene usato anche in forma di nanoparticelle. Noi, per esempio, abbiamo un'attività per sviluppare batterie in cui usiamo nanoparticelle di silicio. Poi, fra l'altro, una cosa da notare è che la microelettronica ormai è nanoelettronica, quindi se vuoi essere così corretto formalmente, diciamo, tutti i dispositivi elettronici sono nanotecnologia, perché sono sotto... Sono già a livello nanotecnologico. Sì, sì, sì, hanno canali, strutture di 100 nanometri, no? Ci sono. Insomma. E sono vicini al limite famoso di cui si dice? La famosa legge di Moore. Sì, sono vicini al limite. Poi continuano sempre ad andare avanti, no? Perché riescono a trovare... Però sì, voi dovete trovare. Noi dobbiamo trovare, ma fra l'altro una delle cose di cui mi sono occupato in passato era l'elettronica molecolare, che è diversa dall'elettronica organica. No? Io faccio elettronica organica, vuol dire che noi usiamo delle soluzioni con delle sostanze chimiche, polimeri tipicamente, che spalmiamo come inchiostri, stampiamo. Quella è elettronica organica, a base di carbonio, quindi il carbonio è lo stesso, molecola della vita, eccetera, bio, eccetera, però biomimetico è una cosa. Poi invece c'è l'elettronica molecolare, che vuol dire usare la singola molecola come dispositivo. E questo però è rimasta ancora nella scienza pura di base, insomma non ci sono dispositivi, e anche l'IBM per esempio ci ha lavorato un po', poi ha iniziato a usare i nanotubi di carbonio, di cui anch'io mi sono occupato un pochino, ma restano curiosità, cioè per il momento quindi l'elettronica molecolare, cioè non l'idea era grandi applicazioni, no, cioè a un certo punto l'idea era di sostituire, no? Arrivare a un certo punto che il dispositivo è così piccolo che tu usi una molecola come dispositivo, no? E non fai più tutta la struttura, però direi questo è ancora lontano e la microelettronica ha ancora spazio per procedere, quindi sempre per più crescere. Piccolo, sempre più veloce, sì, in qualche modo in una direzione, sì. Poi noi andiamo in un'altra, perché noi facendo la stampa facciamo invece grosso, macroelettronica, però per esempio elettronica che si mangia, noi facciamo dei dispositivi elettronici totalmente commestibili, cioè fatti con sostanze naturali. Io mi diverto, faccio vedere delle sostanze tipo gomma lacca, l'albume dell'uovo, gli zuccheri, e dico ecco, questo non è per un cuoco, è per un ingegnere. Un ingegnere che costruisce con questi oggetti, questi materiali commestibili, dei transistor mangiabili. Di solito la gente mi guarda come mi guardate voi, cioè dice sì, ma perché? Poi servono da mangiare o servono? No, allora l'idea è di fare una nuova tipo di medicina, no? Di portare il medico dentro al corpo con dei dispositivi che entrano, fanno delle cose, per esempio potrebbero fare diagnostica, misurano localmente, misurano un'infezione batterica, non sai, per esempio. E devi associare comunque a altre strumentazioni. Sì, beh, noi facciamo, potremmo fare, stiamo lavorando per fare transistor, sensori e poi magari antenne che trasmettono un segnale. Allora a quel punto il medico, veicolatori in qualche modo. Sul cellulare riceve un segnale che gli dice che c'è un'infezione batterica nell'intestino che sta partendo. E allora invece di aspettare i sintomi, che è molto più avanzato, interviene prima. Oppure puoi misurare ossigeno, pH, temperatura, oppure puoi rilasciare il farmaco quando serve, solo e dove serve. Questo è fondamentale per le nuove frontiere della molte medicina. Sì, ci sono. Allora, in questo caso noi andiamo a parlare con i medici, ci facciamo dire cosa loro vorrebbero, cerchiamo di fare cose che servono a loro e potremmo avere quindi una medicina nuova. E il fatto è che non c'è più il problema della ritenzione, perché alcune cose si possono già fare, no? Ci sono delle capsule, si dice per esempio, che semplicemente per esempio danno il segnale se quando la capsula viene presa, perché devi essere preciso con le medicine, per esempio gli antibiotici, come noi sappiamo, vanno presi regolarmente, se no. E quindi la compliance tu lo fai con oppure addirittura telecamere. Però il problema lì è che è una cosa che deve entrare e uscire. E dice, va bene, una volta succede, non c'è rischio, però non lo puoi fare continuamente tutti i giorni. Noi puntiamo a fare degli oggetti che sono totalmente edible, mangiabili. Possiamo anche metterli nelle confezioni e quindi avere uno smart packaging, un pacchetto intelligente che capisce come stanno andando le cose, se è stato esposto il cibo, come è stato trattato, se sta andando male, è stato esposto alla luce, cose così, alla temperatura, oppure addirittura fare delle etichette sul cibo stesso, che poi sono totalmente commestibili e quindi non sono un problema, insomma, possono essere... Con le nanotecnologie... Sembra quasi fantascienza questa cosa, in realtà. Ecco, appunto, sì. A proposito di fantascienza, riusciamo con le nanotecnologie ad arrivare anche dentro le cellule, cioè a consegnare, come si dice, il farmaco all'interno della cellula? Sì, riusciamo, ci sono interessanti applicazioni nella genetica perché le nanoparticelle metalliche coi plasmoni permettono di avere una sensibilità elevatissima, quindi permettono di fare, si spera in futuro, degli screening di malattie in maniera molto precoce. Noi stiamo studiando delle nanoparticelle polimeriche, per esempio, che mettiamo in cellule o mettiamo in polipi nelle idre, che sono degli animaletti primitivi, per studiare come possiamo indurre sensibilità alla luce e quindi controllare il funzionamento delle cellule con le nanoparticelle. Quindi medicina. Medicina. Alimentazione. Computer e informatica, in generale dispositivi elettronici. Stampa. Stampa, energia. Energia. Le nanoparticelle, c'è poi tutto un aspetto di cui abbiamo parlato, di meccanica quantistica, perché tu puoi cambiare la struttura elettronica dei materiali e farli ottimizzati per assorbire la luce o per generare le cariche. Cioè fondamentalmente riuscire a trovare delle celle fotovoltaiche che siano economicamente competitive. Sì, esatto, per esempio che siano stampabili come un inchiostro che tu stampi e che abbiano un'efficienza. Le perossiti, per esempio, hanno attualmente un'efficienza del 20%, cioè vuol dire che sfidano il silicio in questo caso. E ecologia. Ecologia. Che cosa si può fare con le nanotecnologie? Si possono fare varie cose, si può l'energia è un aspetto, l'energia pulita, ma può anche essere intanto la difesa, tu puoi proteggere dall'ambiente, dall'azione, fare dei coating, delle barriere, e poi per esempio fare delle spugne. A Genova c'è un gruppo degli istituti di nanotecnologia che fa delle spugne intelligenti che assorbono il petrolio e lasciano lì l'acqua, quindi tu metti lì la spugna, lei succhia solo il petrolio e poi la schiaccia, il petrolio lo recuperi. Bisogna succhiare le petroliere, bisogna riuscire a fare questa cosa. I petrolieri, direttamente. Forse i petrolieri. Andiamo per un'altra canzone, va. Vai. Forte che puoi, non devi. su per le scale il buio, ma la luce corre dentro agli occhi. Sono un bambino io, con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che vuoi, ah, non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Non so se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa e da metà strada stanco dire a te stesso adesso basta. Eppure altri stanno correndo ancora intorno a te. Allora non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che vuoi. Siamo già arrivati a 5 minuti dalla fine, purtroppo, rimandati a settembre sempre. Guglielmo Lanzani, il nostro ospite, il nostro nanotecnologo. Ancora qualche domanda, una perlomeno gliela possiamo fare. Beh, prima di tutto, perché non farti cadere le braccia a questo brano di Edoardo Bennato? Perché al di là di cosa volesse dire Bennato, che no, a volte è un po' difficile interpretare, e facendo ricerca ti capita sempre, quasi tutti i giorni, che tu fai una cosa e non ti viene. Questo è un classico. E finire nella valle della poi morte. C'è, finisce nella valle della morte. Poi c'è la serendipity, che è tu fai una cosa e ne trovi sempre un'altra. No? Non riesci mai a fare quello che volevi fare. Quindi è una cosa che io sento molto, che però è importante, perché mi ricordo che Freud ha scoperto, studiando il lapsus, ha scoperto l'inconscio, no? Che questo vuol dire, cioè non è che tu ogni giorno devi andare lì e pensare di fare la scoperta del secolo, del premio Nobel. Ti deve piacere il dettaglio, il quotidiano, il piccolo problema, che così, che spesso è fine a se stesso. A volte, dietro a quel dettaglio, c'è invece un mondo, c'è la scoperta. Senti, parliamo di un problema invece delle nanotecnologie, delle paure che suscitano le nanotecnologie. Sì, il Frankenstein, no? Cioè, il mostro che diventa... Beh, guarda, intanto molti prodotti in commercio non specificano cosa hanno dentro. Dicono che sono nanotecnologici, ma non dicono esattamente cosa. Altri danno poche informazioni. Ma non c'è una legge che lo... No, perché la legge non è specifica per le nanotecnologie, per cui se uno dimostra che non è tossico secondo certi parametri, che poi però non sono fatti per le nanotecnologie, poi può andare sul mercato. In realtà le nanotecnologie hanno delle caratteristiche in più, a parte, quindi ci vorrebbe un'etichetta nanotecnologica che dice che dimensioni, che composizione, no? Cose di questo tipo. La stessa cosa che dicevamo prima, no? Della nanotecnologia che può aiutare a portare il farmaco all'interno della cellula, può spaventare all'idea inghiottire qualche cosa che poi potrebbe finire dentro le tue cellule. L'asbestosi è legata al fatto che sono fibre piccole che entrano, quindi nanotubi di carbonio. Ecco, entrano, ma riconoscere, cioè che debba andare nel fegato. Quello lo devi fare con degli antigeni usando la biorecognition, cioè andando alla biologia, quindi devi attaccare delle cose che se, per esempio la photodynamic therapy è la terapia per curare i tumori, in cui devi localizzare delle nanoparticelle solo nei tumori, poi le illumini, queste scaldano e uccidono le cellule. Se loro sono solo nel tumore, uccidono solo il tumore. Il problema è che mirarlo, come fai a mirarlo? Ecco, per mirarlo bisogna rivestire la nanoparticella, che ha questa superficie molto attiva in cui è facile fare della chimica, con delle molecole biologiche che hanno un carattere. Sì, sì, no. E poi vai, okay. Sì, che in qualche modo interagiscono in maniera specifica. Lì ci sono due problemi. Uno è che non è così specifico, per cui poi il paziente deve stare al buio, perché sennò diventa fotosensibile. E l'altro è che arrivare con la luce non è facile, quindi funziona per tumori della pelle, per esempio, ma è difficile portare la luce dentro al corpo. Quindi... Insomma, i problemi esistono effettivamente nell'uso delle nanotecnologie, come tutte le tecnologie nuove vanno maneggiate con cura. Sì, sì, bisogna saperlo. Siamo arrivati in chiusura, ai noi. Grazie Guglielmo Lanzani, è stato un piacere averti qui con noi. Ci hai un po' spiegato queste nuove frontiere che sono senz'altro interessanti, ma non sono ancora, come dire, molto di patrimonio comune, mi sembra. Già. No. Per cui, bene, noi ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì. Termina qui Rimandati a settembre. Roberto Caselli e Paolo Magliocco vi salutano con l'ultimo pezzo scelto appunto da Guglielmo, che mettiamo Another Brick in the Wall. Bene. Across the ocean, leaving just a memory. A snapshot.